Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci ascoltate di prima mattina, buon termine di serata, se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo il mio blog con il quale interloquire è Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Vi ricordo anche, ovviamente, la mail alla quale scrivere, unabusoalgiorno@radio24.it. Una mail che ha utilizzato un radioascoltatore della provincia di Salerno, si chiama Nicola Merola, per far presente alla radio, alla nostra radio, un caso abbastanza curioso che lui denuncia. Probabilmente ce ne saranno tanti in giro per l'Italia, ma comunque questo accade in Campania. Un caso, diciamo così, di un'anomala, dal suo punto di vista ovviamente, lo sentiremo, assegnazione di un appalto milionario da parte di un ASL, l'ASL 2 di Salerno, nei confronti di una casa di cura che si chiama La Quiete. Sapete, in questo momento la regione Campania è sotto l'occhio del ciclone, in realtà da anni, per le folli spese sanitarie, per un buco miliardario la cui entità neppure si conosce. E sapete anche che, probabilmente molti di voi sapranno anche che le ASL sono state commissariate in Campania, un tentativo estremo di trovare soluzioni ad un problema in realtà annoso. Allora, per cercare di capire che cosa sta accadendo in provincia di Salerno, noi abbiamo chiamato ovviamente il radioascoltatore che, tra l'altro, cosa importante, è il coordinatore del Patto per la Salute Mentale della provincia di Salerno ed ha E do quindi il buongiorno a Nicola Merola. Salve. Allora Merola, lei ha mandato questa lunga e documentata lettera a Radio 24. Che cosa sta accadendo a Salerno con la convenzione stipulata tra la ASL stessa e la casa di cura La Quiete? Il 22 dicembre del 2008 l'azienda sanitaria Salerno 2 stipula una convenzione con la casa di cura neuropsichiatrica La Quiete, che si trova in provincia di Salerno. In base a questa convenzione vengono assegnati alle cure infermieristiche 20 pazienti che fino al 31 dicembre erano affidati alle cure del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Salerno 2. Cosa c'è di anomalo? Innanzitutto ci pare strano, io rappresento un patto di enti non profit, sì, quindi cooperative sociali che da oltre 10 anni erogano servizi per questa ASL. Quindi diciamo così che è una parte non disinteressata a quanto sta accadendo. Certo, soltanto che siamo organismi senza scopo di lucro. Benissimo, no, ma lo chiedo soltanto per chiarirlo ai nostri radioascoltatori. Sì, certo. Ci pare innanzitutto anomalo che chiediamo noi enti non profit da 10 anni una convenzione con questa azienda sanitaria locale senza averla mai ottenuta, e invece in solo 18 giorni dalla proposta del direttore del Dipartimento di Salute Mentale, che fa data 21 novembre del 2008, si ottiene questa convenzione. Va bene, per un imprenditore, quindi, privato. Quindi, diciamo così, lunghi tempi di attesa per voi, invece magicamente si risolve il problema per un imprenditore. Prima anomalia, io me le segno, perché poi ovviamente di questo noi terremo conto quando parleremo con la controparte. Seconda anomalia. Questo servizio, ripeto, assistenza infermieristica a 20 pazienti considerati cronici della salute mentale, questo servizio viene affidato dal 1 gennaio del 2009 ad un imprenditore privato senza alcuna gara ad evidenza pubblica. Benissimo, non quindi nemmeno una licitazione privata. Quindi nemmeno confronto con altri prezzi. Un affidamento diretto. Un affidamento diretto senza nemmeno un confronto con altri prezzi. Andiamo avanti. Terza anomalia è che il corrispettivo garantito a questa casa di cura neuropsichiatrica è ammonta a 200 euro pro capite pro die, cioè al giorno per ogni paziente. È tanto o è poco? È una cifra al di fuori di ogni legge. perché le uniche tariffazioni vigenti in Campania sono quelle relative alle case di cura neuropsichiatriche. La stessa La Quiete ospita più di 100 pazienti in convenzione con l'ASL Salerno 2 e ha una tariffa che è quella massima stabilita dalla Commissione regionale, che è di 158,02 euro. Ecco, lei tra l'altro ha fatto un calcolo in questa lettera che ci ha mandato: per un anno la convenzione dà alla casa di cura La Quiete 1,4 milioni di euro, anzi per la precisione 1.460.000 euro. Poi lei scrive che in una delibera c'era stato anche un errore, perché gli assegnavano un milione di euro in più, ma questo è stato un errore poi, come dire, sanato. Allora, 1.460.000 euro, insomma, non è poco, però le domando, Merola, con questi soldi bisognerà pagare strutture, affitti, personale, insomma, no? E invece no. Come invece no? E invece no. No. Perché a fronte dei 158,02 euro che la casa di cura percepisce da molti anni per pazienti ricoverati presso una sua struttura, per questi 20 pazienti, che poi scopriremo non sono nemmeno 20, la casa di cura garantisce esclusivamente servizio infermieristico, una caposala e un operatore sociosanitario e uno psicologo per consulenze. Quindi in tutto 3 persone, mi scusi, ma il resto chi ce le mette? I familiari? Ci vado io? Chi ci va? Ce li mettiamo tutti noi. Ah, che bello! La struttura dove questo servizio è stato affidato è una struttura pubblica. Il vitto, le pulizie, le suppellettili, il personale medico, il personale dirigenziale sono tutti a carico dell'ASL Salerno 2. Quindi il privato, l'imprenditore privato percepisce una retta che è superiore a quella massima consentita in Regione Campania a fronte soltanto di una prestazione di manodopera. Ah, ho capito. Quindi questa qui mi pare un'accusa non di poco conto. Tra l'altro dico subito ai radioascoltatori, domani continueremo a interessarci di questo caso e cercheremo anche ovviamente il rappresentante legale della casa di cura La Quiete. Andiamo avanti. Finora abbiamo scoperto cose molto interessanti, di cui ovviamente poi cercheremo anche la dialettica polemica con altri interlocutori. 1.460.000 euro quindi vengono dati a fronte di prestazioni di 20 pazienti, o neppure questo è così? Nemmeno è vero, perché questa struttura residenziale, ripeto, di proprietà della ASL Salerno 2, che già da anni funziona con proprio personale, devo dire funzionava, cioè fino al 31 dicembre 2008, ha un'autorizzazione solo per 15 posti letto. E gli altri 5 dove vanno? Ah, no, questo non si sa. Di fatto al 19 gennaio 2009, quando il passaggio di consegne c'è stato fra l'AS e questo privato imprenditore, i ricoverati erano solo 12, come il collegio sindacale della nostra ASL ha potuto appurare attraverso un sopralluogo. Ho capito. Ecco, mi scusi una cosa, ma questi soldi, non ho capito bene, arrivano alla fine dell'anno all'imprenditore, a questa casa di cura, se ricovera o indipendentemente dal ricovero, poi abbiamo visto che i numeri nemmeno tornerebbero, dei disabili? Questo fa parte dei tanti punti oscuri di questa convenzione. La convenzione stabilisce un prezzo come se fossero 20 posti letto occupati per 365 giorni, quindi ne dobbiamo desumere che verranno pagati indipendentemente da quanti saranno occupati. Questa quindi è una sua desunzione. Certo. Ho capito. Ecco, una cosa del genere, fossi io nei suoi panni, prenderei tutto quello che lei sta dicendo a me, lo raccoglierei in una bobina telefonica e con la mail che lei ci ha mandato, una bobina ovviamente intendo dire registrata telefonicamente, e mi presenterei dalla Procura della Repubblica di Salerno. Lei perché non lo fa? Lo stiamo facendo. Ah, lo state facendo, benissimo. Un'altra cosa, avete cercato il contatto con La Quiete e con l'ASL Salerno 2? Certo, ma questi contatti li stiamo cercando da 10 anni. Purtroppo questi contatti non sono mai stati produttivi. Ecco, un'altra cosa mi ha sorpreso. La stampa locale. Lei mi ha mandato 2 piccole note del Mattino di Napoli, glorioso quotidiano campano, dove però ci sono delle aride sterili e polemiche di cui francamente a me me ne può fregare di meno, sui politici, l'MPA, tutte queste cose qui. Ecco, ma la stampa locale perché non c'è andata dentro questa convenzione, a quanto lei ci sta dicendo, molto strana, di 1,5 milioni di euro più o meno per 20 ammalati? C'è di più. è per primo il collegio sindacale della nostra ASL, che nei primi giorni di febbraio di quest'anno con una nota mostrava tante perplessità circa la legittimità di questa convenzione, ma la stampa locale ha dato un risalto a questo fattaccio soltanto nel momento in cui l'opposizione politica al governo contro il governo di questa regione ha ritenuto utile parlarne. Ho capito. In base ai nuovi equilibri che si stanno determinando, evidentemente questo polverone non conviene più. Ho capito. Allora, io la ringrazio Merola per il suo intervento. Chiudo qui con lei la trasmissione e domani, cari radioascoltatori, sentiremo un'altra campana, quella dell'ASL Salerno 2. Quindi dico grazie in regia a Fabio Cantadori, in studio a Laura Faggin e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.